Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Moi je pense que la nouvelle politique, c'est pas à propos simplement tout de suite une aide de nature économique. Je suis d'accord avec votre premier ministre que vous avez beaucoup de problèmes, ça va sans dire, mais beaucoup de potentialités, beaucoup d'opportunités. Avete sentito, è anche poliglotta Matteo Renzi, però quasi un impeccabile francese, diciamo, lì nella conferenza stampa che ha tenuto in Tunisia. In questo incontro ha detto che sarebbe stato il suo primo viaggio non verso gli Stati Uniti, verso l'Unione Europea, ma verso il Mediterraneo, proprio perché lì è la nostra, i rapporti di antichissima tradizione. Insomma, l'avete sentito, quindi anche in francese è molto carico Matteo Renzi, perché nel frattempo poi commentava anche quello che stava succedendo in Italia sui primi passi, quelli che ha ritenuto lui dei passi importanti per quanto riguarda la legge elettorale. E su questo, se avete dei commenti da fare, cosa avete capito finora? Cercheremo di chiarirlo meglio, a che punto si è arrivati con questo Italicum. Se avete dei dubbi, delle domande, delle opinioni, pagina Facebook di Effetto Notte. Oppure anche messaggi al 349-238-6666. Insomma, comunque Matteo Renzi continua a essere molto energetico. Intanto il ministro dell'economia Padoan dice: è l'ora della riscossa, abbiamo l'energia per riformare il paese profondamente, radicalmente, dobbiamo rimuovere le strozzature che imbrigliano la nostra società, aprire la nostra società al contributo dei più giovani e di tutti coloro che sono impegnati a dare qualcosa di sé al bene comune. Insomma, quindi tutti pronti, partenza via, vediamo un po' che cosa si riuscirà davvero a fare di buono per questo paese. E io intanto mi limito a raccontarvi in questa prima parte una sintesi della giornata. Legge elettorale, c'è l'accordo sull'Italicum, ma solo per la Camera. Sì, di Forza Italia, Renzi annuncia, venerdì avremo la nuova legge. Berlusconi rinuncia intanto alla riunione del Partito Popolare Europeo. Niente passaporto dai giudici. Ucraina, gli Stati Uniti e l'Europa si dicono pronti a pagare il conto delle minacce russe. Kerry arriva a Kiev e accusa Putin di cercare una scusa per invadere. Criminalità organizzata in Brianza, la banca dell''Ndrangheta, 34 gli arresti. Pompei, ce ne occupiamo noi, dice il ministro Franceschini, così replica all'Europa e stanzia 2 miliardi e promette anche 1 milione di euro per Volterra. Ruspe nel palazzo della grande bellezza, il set del film diventa cantiere per un parcheggio. E partiamo quindi dalla politica, con l'accordo tra Partito Democratico e Forza Italia sulla legge elettorale, come vi dicevo, anche se non è proprio quello che si pensava. Accordo fatto, ma con mugugni. Silvio Berlusconi dice sì all'Italicum per la sola Camera dei Deputati. In pratica si allunga la vita della legislatura, perché adesso bisognerà procedere all'abolizione del Senato come Camera nazionale. In uno scarno comunicato il Cavaliere prende atto con disappunto delle difficoltà di Matteo Renzi, così Deborah Bergamini di Forza Italia. Forza Italia ha accettato questa nuova versione dell'accordo che è stata proposta dal Presidente del Consiglio. Con questo noi vogliamo dare il segnale di che cosa intendiamo quando diciamo che vogliamo fare un'opposizione seria e un'opposizione illuminata e costruttiva. Per le riforme costituzionali occorrono 18 mesi, soddisfatto il Premier Matteo Renzi. Mi pare che sia un importante passo in avanti. Il fatto che il Senato abbia o non abbia una norma elettorale nel momento in cui abbiamo deciso di superarlo è secondario. I deputati PD intanto mantengono gli emendamenti sull'Italicum, Giuseppe Lauricella, quello sull'entrata in vigore della legge alla riforma costituzionale abrogativa del Senato, Alfredo Dattorre, quello che fa valere l'Italicum solo per la Camera, Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi magari riusciremo a sentire anche direttamente Dattorre del PD con il suo emendamento. Intanto per Berlusconi è arrivata oggi una brutta notizia: nessuna trasferta politica all'estero. Niente congresso del Partito Popolare Europeo a Dublino per Silvio Berlusconi. Il Tribunale di Milano ha infatti negato il permesso di espatrio al Cavaliere, al quale, dopo la condanna definitiva per frode fiscale nel processo sui diritti TV Mediaset, era stato ritirato il passaporto. Il leader di Forza Italia non potrà quindi partecipare all'appuntamento organizzato in Irlanda il 6 e 7 marzo in vista delle elezioni europee. Anche a dicembre i magistrati milanesi avevano respinto la sua richiesta di andare a Bruxelles, sempre per un vertice del PPE. È stata solo applicata la legge, fanno sapere fonti del Palazzo di Giustizia, precisando che in tutti i casi, come quello di Berlusconi, non è prevista la possibilità di uscire dai confini nazionali. Non la pensano così, però, i falchi di Forza Italia, che parlano di decisione inumana e vergognosa. Certi magistrati continuano a fare politica calpestando l'ordinamento, commenta la pitonessa Daniela Santanchè. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Alla Camera, nel frattempo, in attesa dell'Italicum, oggi c'è stata la discussione sulle riforme delle pene detentive, la possibilità di ricorrere a amnistia e indulto, sapete, sempre la questione del sovraffollamento delle carceri. Approvata la mozione sulle carceri, ma in un'aula sostanzialmente oggi deserta. E a Montecitorio c'è stata anche la rivolta dei grillini espulsi. Niente dimissioni, hanno annunciato, ma un gruppo autonomo. Lo conferma il senatore espulso Lorenzo Battista, che ha detto: il nostro obiettivo è quello di avere un'identità come gruppo, saranno ammessi solo ex 5 Stelle. E ora alla crisi ucraina, dopo un lieve alleggerimento della tensione, era sembrato così nelle prime ore della giornata di oggi, la situazione è di nuovo molto preoccupante. Gli Stati Uniti parlano di una serie di conseguenze per Mosca, e poi la Russia ha testato poco fa un missile intercontinentale Topol, e leggo adesso Sergio Nava, ciao. Ciao. La Russia, fonti americane dicono siamo stati avvisati di questo lancio del missile Topol, cioè prima li avvisano e poi lo lanciano. Diciamo, non è ancora ben chiaro se sia avvenuto questo missile, anche perché è una notizia veramente di pochi minuti fa. Certamente era quello che mancava per alleggerire ulteriormente la situazione, potremmo dire, con una battuta, Roberta, perché effettivamente è chiaro che ormai è sempre più scoperto il gioco di Vladimir Putin. Getta il sasso e poi nasconde la mano con cui è gettato il sasso, anche perché la Russia sta veramente facendo continue provocazioni. Questa è stata l'ultima, questo è un lancio di prova di un missile balistico che appunto è avvenuto dal poligono di Kapustin Yar nella regione di Astrakhan presso il Mar Caspio. Test positivo, gli Stati Uniti, appunto come hai detto tu, avvertiti, gli Stati Uniti che hanno però fatto una forte pressione, esercitato oggi una forte pressione con l'invio di John Kerry, segretario di Stato, a Kiev. E Kerry è stato abbastanza duro, perché ha detto la Russia cerca solo un pretesto per poter invadere l'Ucraina, e anche Obama è tornato a parlare oggi, il presidente americano Barack Obama, della crisi, dicendo condanniamo l'atto di aggressione da parte della Russia, gli Stati Uniti sono col popolo ucraino. Anche la NATO ha alzato la voce, ha alzato anche e soprattutto l'allerta, mentre Robert Serry, inviato delle Nazioni Unite per la crisi ucraina, è in viaggio, lo si è saputo poco fa, verso la Crimea. E domani, rimanendo sempre nell'ambito delle istituzioni internazionali, l'Unione Europea dovrebbe varare un primo pacchetto di aiuti, soprattutto nel campo energetico, a favore di Kiev. Chiudiamo parlando di Putin che oggi appunto ha fatto un po' ripetuto la commedia che si vede da diversi giorni, perché infatti ha parlato di un golpe armato, parlando di quello che è avvenuto a Kiev nei giorni scorsi, quindi ha detto Yanukovych è legittimo presidente, poi però di fatto l'ha scaricato, ha detto l'uso della forza è l'ultima risorsa, non vogliamo annettere la Crimea. Poi lancia il missile Topol. Poi lancia il missile e poi continua comunque, anche oggi sono stati degli episodi abbastanza equivoci con irruzioni di soldati russi in una struttura militare della difesa aerea ucraina, Putin continua a dire non sono nostri militari e ormai neppure Kerry, persino Kerry oggi lo ha preso in giro in conferenza stampa dicendo ah sì, veramente ha detto questo. Oggi la tensione si è allentata, ma è difficile dire ancora per quanto e se soprattutto resterà così allentata. Dobbiamo essere realisti. Grazie Sergio Nava. Adesso torniamo invece sulle questioni italiane con la cronaca. È stato portato in ospedale per un malore il boss Totò Riina. Si pensava un infarto, ma gli esami clinici poi avrebbero stabilito che si tratta di un'indigestione. Come abbia fatto a fare un'indigestione in carcere, questo è un fatto un po' misterioso. E poi un altro fatto di cronaca. La giovane donna e un figlio di 3 anni uccisi in casa a Milano sono stati trovati accoltellati, ora è caccia al convivente di lei. Ma ritornando sulla criminalità organizzata, è stata scoperta in Brianza la banca dell''Ndrangheta. Si definiva una lavanderia. Giuseppe Pensabene, arrestato con altre 33 persone, quale gestore di una vera e propria banca clandestina. Uno sportello autonomo che, grazie ad una rete di società di copertura e alla collusione di insospettabili, accumulava soldi provenienti dall'usura e dal riciclaggio e appunto li ripuliva. Lavoro che poteva svolgere grazie alla disponibilità di dipendenti postali, bancari e di imprenditori, ha precisato il capo della squadra mobile di Milano, Alessandro Giuliano. Questa organizzazione, per quanto sofisticata dal punto di vista economico-finanziario, non ha dimenticato il metodo mafioso. Il metodo mafioso è sempre presente, c'è un ricorso sistematico, scrive l'autorità giudiziaria, all'intimidazione, alla violenza. Metodo mafioso sì, ma una struttura andranghetista del tutto nuova, niente rituali né affiliazioni, poche armi. Coinvolto anche un ex assessore di Forza Italia che gestiva i fondi per detenuti andranghetisti. Anna Rita Lambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di Apple adesso, perché la Apple affida i suoi conti all'italiano Luca Maestri, romano di 50 anni, già uomo Apple, assumerà l'incarico sostituendo Peter Oppenheimer, che andrà in pensione in settembre dopo 18 anni. E poi le ruspe in azione a Roma, Palazzo Spada, la dimora del 600, che è stata anche il set della Grande Bellezza. In corso i lavori per la costruzione di un parcheggio sotterraneo. Il presidente della Commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci, in un'interrogazione chiede rassicurazioni. Sentiamolo al microfono di Enza Lo. Palazzo Spada è un palazzo molto bello, c'è un giardino seicentesco, è un palazzo su cui ha lavorato anche Borromini, che addirittura è ricorso al contributo di un matematico per realizzare un trompe-l'œil straordinario. In questo palazzo è stata girata anche in parte La Grande Bellezza. Ora sono in corso dei lavori, non c'è trasparenza, non si sa quando questi lavori finiranno. Si sta realizzando un parcheggio, si stanno espiantando delle piante. Noi per questo, io e una collega, Lorenza Bonaccorsi, abbiamo presentato un'interrogazione per sapere dal Ministero dei Beni Culturali se è informato dei fatti, se ci sono tutte le autorizzazioni e soprattutto avere garanzia che un luogo magico come questo non venga rovinato per il futuro. E oggi, il 4 marzo, Lucio Dalla avrebbe compiuto 71 anni. A ricordarlo, Gianni Morandi gli ha dedicato un video su Facebook. 4 marzo 43. La fondazione finalmente arriva, attesa da sempre, da quando Lucio Dalla scomparve improvvisamente 2 anni fa, più volte annunciata, caldeggiata dagli amici perché conoscevano i desideri di Lucio, ma resa di difficile creazione per la situazione creatasi alla sua morte. L'eredità divisa tra i cugini, che non conosceva nessuno e che qualcuno è pronto addirittura a dire non fossero nemmeno parenti tanto vicini. La figura di Marco Alemanno, per cui si sono usate tante definizioni, ma anche di questo ormai non si può più dir nulla ora che Lucio non c'è più. E ora Ron, amico di vecchissima data, dichiara che Alemanno era solo produttore e segretario, facendo arrabbiare altri amici che invece raccontano da sempre come i due fossero serenamente compagni di vita. Unione sentimentale che, anche se l'avesse voluto, Lucio Dalla non avrebbe potuto comunque regolarizzare. Tante le riflessioni che accompagnarono in questo senso la scomparsa dell'artista. Ora, con la nascita della fondazione, i suoi progetti artistici potranno essere realizzati, ma Marco Alemanno non avrà alcun ruolo. E mentre Bologna non si dimentica del suo più appassionato cantautore, celebrandolo anche quest'anno, sicuramente non mancherà di seguire da vicino le attività che verranno intraprese nel suo nome. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme, Roberta Giordano con voi. Vi ricordo prima quali sono stati i fatti principali della giornata e poi andiamo su uno di questi in particolare. L'Italicum solo per la Camera, c'è il via libera anche di Forza Italia. Renzi dice per venerdì la legge, intanto il Senato sarà abolito. E per l'Ucraina, Russia testa un missile balistico, c'è alta tensione con gli Stati Uniti di Obama che annuncia sanzioni per Mosca. E per quanto riguarda la criminalità organizzata in Brianza, è stata trovata la banca dell''ndrangheta, 34 gli arresti. Per Pompei ce ne occupiamo noi, dice il ministro Franceschini, replicando l'Europa stanzia 2 miliardi e ne promette 1 milione di euro per Volterra. E poi avete sentito ruspe nel Palazzo della Grande Bellezza, il set del film diventa un cantiere per un parcheggio. Quindi dicevamo dell'Italicum, vi dico giusto qualche dichiarazione, vi riporto qualche dichiarazione che oggi riportavano anche a loro volta le agenzie. Per esempio Lorenzo Guerini, che è portavoce della segreteria del PD, ha detto: positivo che abbiamo trovato l'accordo sulla legge elettorale, segno che il cammino delle riforme può proseguire. Poi Alfano, il grande alleato insomma nella maggioranza di governo di Renzi e del PD, dice: ok, solo la Camera, bisogna infatti superare il Senato, noi non siamo delusi da Renzi, patti chiari, riforme certe, avanti tutta. Evidentemente si riferisce, noi non siamo delusi, da una nota di Berlusconi che aveva detto sono deluso dalle difficoltà di Renzi. E poi c'è Roberto Speranza, capogruppo del PD, che dice noi dobbiamo rivendicare, capogruppo alla Camera, dobbiamo rivendicare con forza che il gruppo ha proposto delle modifiche per tenere insieme la maggioranza e Forza Italia. E poi Renzi dice secondario se il Senato non ha una norma elettorale, non capisco le polemiche. Insomma, nonostante Michele Ainis oggi avesse scritto il suo editoriale sul Corriere, il buon senso nel cestino, hanno proseguito, non hanno ascoltato il tuo monito. Michele, ciao, bentornato. Evidentemente non sono così ascoltabile. Così influente, almeno nella politica italiana. Senti, perché vogliamo ricapitolare, da dove era iniziata questa storia? Da questo accordo, potremmo dire extraparlamentare, tra Renzi, quando era, diciamo, solo segretario del PD, e Berlusconi, che ormai era senatore decaduto, ma sempre leader, naturalmente, di Forza Italia, no? Sì, già qui, se ci ragioniamo su, c'è una difficoltà sopravvenuta, perché quando Renzi era segretario del Partito Democratico poteva anche permettersi di imbastire una maggioranza altra da quella del governo che valesse per le riforme, perché poi nel governo c'era Letta che teneva insieme la sua maggioranza. Adesso questo doppio tavolo è molto più complicato, perché a capotavola c'è una sola persona che per l'appunto Renzi, presidente del partito, presidente del Consiglio e anche del segretario del Partito Democratico. Mm. Quindi questa difficoltà, diciamo sopravvenuta, forse spiega le difficoltà in cui è incappato il cammino della legge elettorale, il cui accordo iniziale si sta stravolgendo. Io ho un po' l'impressione che sia diventata un po' una finta, cioè fingono di scrivere la legge elettorale perché non riescono a stipulare un accordo sostanziale. Una volta si mette per traverso Alfano e un'altra volta la minoranza del Partito Democratico. Devo continuare? Sì, no, mi chiedo Michele Ainis, quindi tu parlavi oggi in questo tuo pezzo sul Corriere di un paradosso, di una serie anzi di paradossi e di incongruenze, no? All'interno di questi passaggi della legge elettorale, dicevi il fatto che è previsto solo per la Camera, come da emendamento di Alfredo Dattore, che tra poco dovrebbe raggiungerci, e quindi insomma dice, questo potrebbe anche comportare il rischio che o la volontà che si voglia andare avanti, siccome la riforma del Senato è una cosa ben più difficile che la riforma della legge elettorale, no? È una cosa costituzionale, bisogna cambiare delle regole costituzionali, quindi se si aggancia la riforma della legge elettorale anche all'abolizione del Senato, finisce che si arriva alle calende greche. Diciamo questo, che se la situazione a un certo punto si è incartata e tuttavia le forze politiche avevano necessità di dimostrare ai loro elettori di essere in grado di fare delle riforme, allora tu fai la riforma finta. Come la puoi fare la riforma finta? Una prima soluzione era l'emendamento Laudicella, che diceva ok a questa riforma, ma entrerà in vigore quando scatterà la riforma del Senato con la sua sostanziale abolizione. Allora quello sarebbe stato, che cosa? Una promessa. Ti prometto che c'è una legge che ho scritto e che manderò in vigore se si verifica una condizione. Però le leggi prescrivono, non promettono, sono i fidanzati a promettere. Se poi uno ci crede, è difficile poi credere alle promesse dei politici in base all'esperienza che abbiamo avuto. Quindi una cosa abbastanza bislacca. Però a me pare ancora più bislacco l'emendamento Dattore. So che sarà vostro ospite, avrà modo di argomentare le sue ragioni, per carità. Perché bislacco? Diciamo anche Forza Italia con Berlusconi adesso è convenuta su questo emendamento, perché l'emendamento restringe la portata della modifica elettorale soltanto alla Camera, facendo finta che il Senato non esista, però il Senato esiste, quindi ed esiste non, modificando il sistema che lo elegge, c'è un sistema proporzionale qui e oggi per eleggere il Senato, perché è il sistema che deriva dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato in parte incostituzionale il Porcellum. La normativa di risulta, cioè quello che ne viene fuori, è un sistema proporzionale, così come è anche per la Camera, senza premio di maggioranza. Sulla Camera intervengo. Allora, intervenendo sulla Camera soltanto e guardando la situazione oggi, non a quello che accadrà, se accadrà fra un anno, io avrò oggi un sistema bicamerale con due Camere, entrambe votano la fiducia, entrambe timbrano le leggi, ma elette in modo non diverso, opposto, una con un maggioritario, l'Italicum, la Camera, e una con un proporzionale, il Senato. E questo non è possibile, è irragionevole e quindi è incostituzionale. Peraltro io oggi sul Corriere citavo tre righe della sentenza costituzionale che lo dicono chiaro e tondo, cioè che diventa un profilo di illegittimità prevedere dei meccanismi elettorali in grado di favorire risultati disomogenei fra le due Camere. Questi risultati ci possono essere sempre in un sistema bicamerale, ma se tu li allevi, allora tu sei un legislatore schizofrenico. Però io ti faccio rispondere direttamente da Matteo Renzi. Aspetta un attimo, Michele Ainis. Il fatto che il Senato abbia o non abbia una norma elettorale nel momento in cui abbiamo deciso di superarlo è secondario. Per cui questa discussione, a mio giudizio, è davvero secondaria. Che ci sia o non ci sia il cosiddetto articolo 2 è una questione, il cosiddetto l'articolo 2 della legge è un tema che riguarda gli addetti ai lavori. I cittadini devono sapere che andremo a votare soltanto per la Camera, perché non si voterà più per il Senato della Repubblica, e quindi che questo accada con una norma di salvaguardia o senza una norma di salvaguardia è decisamente secondario. Hai capito, ti ha risposto Renzi, Michele Ainis, secondo te? No, diciamo, questa è la promessa di riformare il Senato. Quando, ora io mi chiedo questo, ma perché non, come si era deciso inizialmente nell'accordo Renzi-Berlusconi, non prevedere una legge elettorale per entrambi, coerente su entrambi i rami del Parlamento? Dopodiché, se nei sei mesi successivi si approva la riforma del Senato, non c'è più il Senato, quella parte della legge elettorale che riguardava il Senato sarebbe caduta da sola. È come il caso di una legge che prevede un tipo particolarissimo di margherite, poi queste margherite non ci sono più, si estinguono, e si estingue anche la legge, perché si estingue l'oggetto della legge. Quindi, molto poetica questa metafora delle margherite, non so quanta poesia ci sia nella politica, ma insomma, Michele, quindi tu vuoi dire che in realtà l'accordo era un altro, poi si è cambiato in corso d'opera, secondo te, più per responsabilità, per volontà, per colpa di chi? Ma qui quello che si legge è che sia stato il partito di Alfano, avendo timore che una legge elettorale pronta per l'uso possa benedire un'elezione, uno scioglimento anticipato, un'elezione dopodomani, non essendo pronto, perché non essendo ancora strutturato e organizzato come nuova forza politica a sostenere delle nuove elezioni, allora la clausola che diciamo difenderebbe la sopravvivenza di NCD è questa qui. Però qui c'è un problema politico che viene in questo modo risolto, determinando un danno giuridico e direi anche un danno al buon senso. Comunque Michele, quindi quando Berlusconi oggi ha fatto sapere di essere deluso da Renzi per le difficoltà che incontra, evidentemente si riferiva a questo, cioè l'accordo loro era un altro, poi per tenere insieme nella maggioranza anche il nuovo centrodestra, visto che si dice che Renzi corre su due binari, due maggioranze, una fuori con Forza Italia e una, cioè Berlusconi fuori in realtà Forza Italia è all'opposizione ma in Parlamento, e una con il nuovo centrodestra che è all'interno del governo, no? Quindi è dovuto scendere un ulteriore compromesso per tenere tutto insieme, e probabilmente Berlusconi ha digerito con difficoltà. Sì, Ovviamente Berlusconi non vuole essere espulso da questa partita delle riforme, quindi sta accettando via via degli accomodamenti. Però ecco, insomma, ripeto, il risultato adesso mi pare irragionevole. Quindi il prossimo passo secondo te quale sarà? Questo fatto di legare la riforma elettorale, che sarà legata soltanto alla Camera, di agganciarla alla riforma del Senato, secondo te nasconde neanche in modo così recondito la volontà di rimandare sine die un possibile voto, insomma, con una clausola per Alfano di non andare a elezioni in tempi brevi? Questo in conclusione. Però vorrei segnalare, perché questo non è stato ancora segnalato, che se sarà questo l'esito, cioè di una riforma che vale solo per la Camera, questo metterà in croce il Presidente della Repubblica, che dovrebbe promulgare una legge che diciamo sballa il bicameralismo e sballa la governabilità, nel senso che ti garantisce un risultato incoerente. Quindi tra le vittime di questo accordo politico ci potrebbe essere domani, e magari poi sarà sotto i riflettori fra un mese o due, anche la condizione del Capo dello Stato, probabilmente pressato da sponde diverse. Ma Michele Ainis, tu che sei costituzionalista, editorialista del Corriere della Sera, dell'Espresso, eccetera, eccetera, docente di diritto di istituzione, diritto pubblico, Università di Roma III, eccetera, eccetera, secondo te quanto tempo ci potrebbe volere per la riforma del Senato, quindi l'abolizione, diciamo? Ma quando c'è un accordo politico, le riforme costituzionali si fanno in 4 e 4-8. La riforma dell'articolo 81, quella che ha previsto l'obbligo del pareggio di bilancio, ma si è fatta in 4 mesi. E la Costituzione prevede che sia un stacco di 3 mesi tra i due voti, quindi niente ti impedisce che in 4 mesi fai tutto. Quindi potrebbe succedere anche per il Senato. Sì, io intanto però voglio vedere i senatori che vanno, diciamo, con il sorriso e i denti sguainati a suicidarsi. A buttarsi. Capito, mi sembra un'immagine un po' difficile, diciamo, quasi fantascientifica, fantapolitica, però staremo a vedere. Io ti ringrazio moltissimo e a presto, Michele Ainis, grazie. A te, buon lavoro. Ciao, buona serata, buon lavoro. E c'è intanto Alfredo Dattorre che ci ha raggiunto, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera onorevole Dattorre, quindi lei ha sentito un po' le perplessità piuttosto nette di Michele Ainis su questa cosa, lei tra l'altro è responsabile proprio e fautore del suo stesso emendamento, l'emendamento Dattorre, che appunto prevede che la riforma della legge elettorale, se non sbaglio mi corregga, sia agganciata appunto alla riforma del Senato. Ma più precisamente si parla della legge elettorale solo per la Camera, perché il Senato lo riformiamo, non sarà più elezione diretta. Io ho rilanciato un emendamento che era stato già presentato da diversi gruppi politici, praticamente quasi tutti tranne Forza Italia, in una fase precedente. Io credo che le preoccupazioni del professore Ainis siano francamente eccessive, perché è ovvio che a questo punto la legge elettorale e la riforma del Senato procederanno di pari passo. Cioè, il punto che abbiamo sancito oggi è che l'impegno a riformare il Senato diventa un impegno irreversibile, nel senso che sarebbe da pazzi andare al voto con un sistema elettorale alla Camera e mantenendo il Senato elettivo con la vecchia legge elettorale. Questo è il punto politico che è stato sancito oggi. Adesso partiamo con la riforma della legge elettorale alla Camera, al Senato nelle prossime settimane partirà la riforma del bicameralismo e i due iter marceranno in parallelo, poi probabilmente arriverà prima a destinazione la legge elettorale, che non richiede le quattro letture. Ha parlato di venerdì addirittura Renzi? Sì, può essere venerdì, può essere sabato, comunque insomma all'inizio della settimana prossima, comunque parliamo di giorni a questo punto. Adesso il prossimo passo è la riforma del Senato, del bicameralismo, che partirà proprio al Senato, quindi siamo su binari paralleli ed è evidente che Italicum e riforma del Senato a questo punto sono indissolubilmente legati, ma anche per una ragione molto semplice che credo possa riconoscere, avrebbe riconosciuto anche il professor Ainis. Questa ipotesi di riforma elettorale basata sul ballottaggio è ovvio che ha un senso se ce l'ha soltanto in un sistema monocamerale, perché col doppio ballottaggio, nel caso di un sistema bicamerale tra Camera e Senato, il rischio di produrre esiti diversi e quindi una gran confusione, certo, è un rischio altissimo, forse perfino superiore a quello che c'è con il consultellum. Quindi due ragioni fondamentali che, diciamo, militano a favore di questa soluzione e del suo buonsenso. Uno, che oggi abbiamo ribadito con tutti e anche con Berlusconi, l'impegno a riformare il Senato. Due, è che abbiamo reso l'Italicum coerente con la sua logica, cioè una legge elettorale che può funzionare solo in un sistema monocamerale. Ma onorevole Dottore, lei ha sentito prima Michele Ainis diceva è difficile immaginare i senatori che vanno a suicidarsi, cioè che votano contro se stessi, contro le loro poltrone, eccetera. Quindi sarà una cosa liscia questa di arrivare anche alla riforma del Senato? Non è, diciamo, lì sostanzialmente noi stiamo riducendo i parlamentari da 945 a 600. 30. Sì, non c'è scritto da nessuna parte che i senatori al prossimo giro non possano candidarsi alla Camera. Però capisce, quindi, che insomma, non è scontata la possibilità di rientrare, quindi questo ma è un problema che riguarda anche i deputati da questo punto di vista. Ma quindi non si allungheranno i tempi, Alfredo Dattore, non si allungheranno i tempi e quindi nonostante la riforma elettorale, col fatto che è agganciata la riforma del Senato, potrebbero... Io credo che con l'accordo di oggi la possibilità che questa legislatura si chiude avendo portato in porto la riforma del Senato siano probabilità fortemente cresciute. Senta, quindi... Se Berlusconi avesse continuato a dire di no, è evidente che a quel punto ci sarebbe stato da dubitare molto di più sulla serietà dell'accordo tra Renzi e Berlusconi. Senta, è evidente che a quel punto avrebbe puntato solo a incassare una legge elettorale a lui favorevole e poi andare al voto. Venendo meno all'impegno sulle riforme, come purtroppo è avvenuto già da parte di Forza Italia e di Berlusconi, purtroppo è già avvenuto in passato, quindi avere un po' di diffidenza è giusto, credo. È normale. Ultimissima domanda, dottore, abbiamo proprio pochi secondi. Lei non intravede il pericolo che a un certo punto di questo iter Forza Italia si possa sfilare da questo accordo? Credo che dopo il passaggio di oggi chi si sfilasse pagherebbe un prezzo molto molto più alto e quindi credo che ci rimetterebbe anche la faccia, credo di sì. Questo è il vantaggio un po' del passo in avanti che abbiamo fatto. Dopodiché la legge elettorale comincia il suo iter, il PD ha ritirato gran parte degli emendamenti. Nel corso del suo percorso parlamentare io continuo ad auspicare che su altri punti come le liste bloccate ci possano essere dei miglioramenti. Bene, io la ringrazio e le auguro buon lavoro allora, Alfredo Dottore. Grazie, buonasera. Grazie a lei. Ci fermiamo qui, vedo vari messaggi critici, per esempio un altro ascoltatore che dice i soliti falliti della politica con a capo Mr. Bean si sono inventati una nuova porcata per far digerire al popolo bue, dice che schifo, insomma c'è una certa diffidenza di cui si parlava prima. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, sempre a vostra disposizione la pagina Facebook di Effetto Notte, anche per i messaggi a 349-238-6666. Vedo molto scoramento, Gianni che dice ma sono pessimista e qualcun altro che dice ma insomma se dovesse fallire questa riforma del Senato, gli interrogativi potrebbero essere tantissimi, avete sentito un costituzionalista noto e competente come Michele Ainis, un deputato del PD Alfredo Dattore, spero che qualcosa di più vi si sia chiarito in un senso o nell'altro e poi non resterà che stare a vedere che cosa succede. Intanto, prima di passare all'altro grosso tema della giornata, vi ricordo gli argomenti di questa giornata, i principali. Partendo dalla legge elettorale c'è l'accordo sull'Italicum, ma solo per la Camera, sì anche di Forza Italia. Renzi annuncia venerdì avremo la nuova legge, Berlusconi rinuncia alla riunione del Partito Popolare Europeo perché niente passaporto, gli dicono i giudici. Ucraina, gli Stati Uniti e l'Europa si dicono pronti a pagare il conto delle minacce russe, Kerry oggi a Kiev, nel frattempo la Russia ha testato un missile balistico. Criminalità organizzata in Brianza, la banca dell'Andrangheta, sono state 34 le persone arrestate per Pompei, ha detto il ministro Franceschini replicando all'Europa, ce ne occupiamo noi, stanzia 2 miliardi e poi promette 1 milione di euro per Voltaire. E l'altro grosso tema continua a essere naturalmente in questi giorni la crisi ucraina. E allora saluto Jacopo Zanchini. Ciao Jacopo. Buonasera. Vice direttore del settimanale internazionale. Dà veramente una panoramica interessantissima ogni settimana sul resto del mondo, quindi per essere un pochino meno provinciali e localistici. E, Jacopo, allora mi sembra che le cose si facciano serie. Adesso hai sentito che la Russia ha testato questo missile intercontinentale Topol, che non ha sicuramente due orecchie simpatiche, come potrebbe evocare il nome, vero Jacopo? No, immagino di no. Ma questi, a me sembra che ci sia però un atteggiamento doppio da parte della Russia, di Mosca e di Putin, cioè da una alterna dei segnali di aggressività a dei segnali di distensione in modo sistematico. Da una parte naturalmente sono evidentemente soldati russi quelli che occupano le basi militari ucraine in Crimea, quindi in territorio ucraino, dall'altro lui nega che ci siano soldati russi, quindi in qualche modo rivendica, in qualche modo fa vedere i muscoli, ma un po' lo nasconde. Difende il presidente Yanukovych come legittimo, però dichiara che non ha nessun futuro politico, quindi in qualche modo apre al dopo Yanukovych. Insomma, sta tenendo un atteggiamento che potremmo definire contraddittorio oppure furbescamente ambiguo. Strategico, insomma, no? Sembra esserci un disegno, speriamo, perché se non c'è è preoccupante, che è quello di alzare la posta, di ottenere il massimo da questa crisi ucraina in termini di concessioni probabilmente. Quindi la Crimea, per esempio? Avere è difficile immaginare che la comunità internazionale possa accettare tecnicamente lo smembramento di un paese sovrano come l'Ucraina. Quello che può ottenere è uno status particolare per l'Ucraina e la Crimea, in cui c'è una sorta di cogestione, in cui è territorio ucraino, ma insomma naturalmente con una vastissima autonomia, con dei legami con Mosca molto forti. Insomma, delle soluzioni in questo senso si potrebbero trovare. È chiaro che dipende un po' anche dalla diplomazia e dalla capacità che hanno gli Stati Uniti e l'Europa di rimettersi in moto dopo essere stati obiettivamente molto vacanti, insomma, in questa fase. Mi pare molto delicata che gli Stati Uniti siano abbastanza, anche lì non so se appunto il gioco delle parti, facendo la voce grossa. Oggi il sottosegretario di Stato, cioè il ministro degli esteri americano Kerry, era a Kiev, ha detto vi aiuteremo, ha detto manifestanti in piazza, e poi ha annunciato più volte gli Stati Uniti che ci saranno conseguenze per la Russia. Cosa si intende per conseguenze? Tra l'altro, cosa potrebbero aiutare, forse con degli armamenti, con dell'intelligence, con dei sistemi logistici l'Ucraina, intanto gli Stati Uniti, di modo difensivo, in termini difensivi? Ma innanzitutto mi pare che Kerry sia arrivato e gli abbia detto che gli daranno $1 miliardo, che quindi all'Ucraina. Diciamo, all'Ucraina. E in questo momento una delle grandi preoccupazioni degli ucraini, dei cittadini, è la crisi economica, le difficoltà economiche di un paese che è comunque in gravissima crisi e con delle prospettive molto difficili all'orizzonte. Quindi l'America apre il portafoglio innanzitutto e poi dice manda il ministro degli esteri, e quindi diciamo dopo il presidente, la persona più importante nelle relazioni internazionali, e offre la sua protezione. Noi saremo al fianco dell'Ucraina. È un impegno formale molto importante degli Stati Uniti. In questo senso gli Stati Uniti, molto più dell'Europa, molto più prudente, molto più machiavellica, molto più divisa, gli Stati Uniti si sbilanciano molto di più. Naturalmente le conseguenze non possono essere in nessun modo militari, non stiamo assolutamente parlando di questo. Le conseguenze di una crisi con la Russia oggi, per fortuna, sono strettamente conseguenze di carattere commerciale. Gli Stati Uniti possono prendere, e l'Europa, se la crisi si dovesse aggravare, cosa che non credo e non spero, possono prendere ovviamente dei forti provvedimenti nei confronti della Russia, dei dirigenti russi, delle relazioni diplomatiche, economiche e commerciali con un paese importante come la Russia di Putin. E anche disertando, mi sembra, il G8 di Sochi. Quando ci dovrebbe essere? Tu te lo ricordi, Jacopo Zanchini? Dunque, mi pare sia a fine mese. Mi pare che sia a fine mese, non vorrei dire una... Però potrebbe essere anche quello, insomma, una misura di disertarlo, di isolare. Putin ha già detto che non gli frega niente. Chi viene o non chi viene. simpaticamente, però lì la questione, io sono un po' contro, nel senso i luoghi di dialogo secondo me vanno tenuti in piedi, anche se il dialogo diventa ruvido, non so come dire, chiudere i fori in cui si può discutere sarebbe è un pericoloso, problema, perché poi non si discute più. Io penso che, e mi auguro che ci sia un gioco delle parti anche tra Stati Uniti e Europa, che la signora Merkel soprattutto in nome dell'Europa, mentre gli americani fanno un po' la voce grossa, faccia da mediatrice. Esattamente, anche perché la Germania in particolare ha interessi a mantenere i rapporti con la Russia migliori possibile per questioni soprattutto di forniture di gas, che è una questione che riguarda l'Europa intera, ma alcuni paesi molto più di altri, per esempio la Germania, ma molti paesi piccoli come paesi baltici, la Polonia, la stessa Austria, dipendono dal gas russo in maniera molto determinante, più determinante per esempio dell'Italia, che è più diversificata. Quindi da più punti di vista, insomma, da seguire la linea mediatrice pacifica, naturalmente, come tutti ci si augura. Jacopo Zanchini, io intanto ti ringrazio, vice direttore internazionale, ci sentiamo magari prossimamente su questi temi. Va bene? Sono io che ringrazio voi. Buona Grazie serata. Jacopo, ciao, buona serata a te. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ale da Milano scrive: tutti stanno a guardare se Renzi ce la fa, come se fossero contenti se il paese va in rovina, ma siamo matti. No, credo che si stia a guardare, insomma, con una certa speranza, una certa curiosità, e poi è chiaro che, viste come sono andate le cose in passato, uno può essere anche minimamente diffidente, ma è chiaro che tutti speriamo nel bene collettivo. I titoli principali naturalmente sono quelli che riguardano la politica italiana: c'è l'accordo sull'Italicum, ma solo per la Camera, anche Forza Italia ha detto di sì, e Renzi annuncia venerdì avremo la nuova legge. In Ucraina avete appena sentito che cosa sta succedendo. Il test missile balistico fatto dalla Russia ha testato questo missile balistico, è alta la tensione con gli Stati Uniti, criminalità organizzata, una banca dell''Ndrangheta scoperta in Brianza, ci sono stati 34 arresti, e poi per Pompei Franceschini ha detto che sbloccherà 2 miliardi e anche 1 milione di euro per Volterra. E ora è il momento dell'Europa, dei nostri 3 minuti d'Europa, come sempre, visto che a maggio poi si voterà. Deborah Bergamini di Forza Italia risponde a Elisabetta Fiorito, che sentiremo tra poco, a proposito delle parole del commissario europeo per la politica regionale Johannes Hahn su Pompei. Europa 24 notte. Verso le europee. Buonasera, qui da Montecitorio per l'Europa abbiamo con noi questa sera Deborah Bergamini di Forza Italia. Buonasera onorevole. Buonasera a voi. E allora andiamo subito a quella che è la notizia della giornata, perché il commissario europeo per la politica regionale Johannes Hahn ha detto che bisogna assolutamente curare il sito di Pompei e che ci saranno, buona notizia, nuovi fondi per questo sito archeologico. Voi siete contenti come partito, come Forza Italia? Certamente. Ogni gesto e ogni contributo a tutela del patrimonio di Pompei non può che essere benvenuto. Anche qui io credo che sia necessario un cambio di passo, dunque dovremo essere noi come paese più efficienti nel chiedere maggiori finanziamenti per opere come questa, ma nello stesso tempo dovremo anche completamente cambiare il nostro approccio rispetto alla cultura nel nostro paese. Un approccio che deve cambiare, e su questo devo dire che anche Renzi è stato molto chiaro, perché lui ha detto: perché non possiamo aprire ai privati come accade in tanti altri paesi, per esempio negli Stati Uniti. Ecco, su questo noi siamo senz'altro d'accordo. Ecco, ma lei non pensa che l'Europa poi debba intervenire su un paese che detiene l'80% delle opere d'arte del mondo e che fa parte dell'Unione Europea? Certamente l'Europa può e deve fare molto di più per la tutela di gioielli autentici della nostra cultura come Pompei. Adesso è il tempo degli annunci per i commissari europei ed è normale, perché sono in scadenza. Benvengano le parole di Hahn, che registriamo con grande soddisfazione. Mi auguro anche che il suo successore potrà mantenere l'impegno che Hahn ha preso. Voi come Forza Italia sosterrete ovviamente la candidatura del Partito Popolare Europeo. Cambierà qualcosa con queste elezioni europee? Dunque, noi ci riuniremo per scegliere e eleggere il nostro candidato nei prossimi giorni a Dublino al congresso del Partito Popolare Europeo. Io credo che sì, le cose cambieranno, perché noi ci apprestiamo a un'elezione, quella del prossimo 25 maggio alle europee, che sarà molto difficile perché si teme che ci sarà una bassissima affluenza e un grande risultato dei movimenti cosiddetti populisti. Ma Forza Italia è anti-europeista o è europeista? Ma no, assolutamente. Questa leggenda di Forza Italia del presidente Berlusconi anti-europeista è stata sicuramente qualche ghiotta polpettina. Berlusconi è stato forse il presidente del Consiglio più convintamente europeista, e Forza Italia è uno dei partiti più importanti della grande famiglia del Partito Popolare Europeo. Ringraziamo allora l'onorevole Deborah Bergamini per Forza Italia. Grazie. Grazie a voi. Europa 24 notte. Verso le europee. E questo per quanto riguarda l'Europa. Invece stavo guardando ancora i vostri commenti relativamente alla legge elettorale. Ho capito che andremo a votare, dice Corrado, ancora con il Porcellum, e comunque abolire il Senato lo trovo una follia, meno male che non lo aboliranno mai. Domenico Alberto: dicono di voler semplificare le cose, ma in realtà le complicano, le rendono incomprensibili, per certi versi abbastanza. Ciao Gianni Barbacetto. Buonasera a voi. Gianni, giornalista del Fatto Quotidiano, autore di vari saggi, tra cui Le mani sulla città con Davide Melosa. I boss dell''Ndrangheta vivono tra noi e controllano Milano. E ne è un'ulteriore conferma, un'ulteriore prova quello che è successo nelle ultime ore. A Milano è stata scoperta la banca dell''Ndrangheta. Riciclava il denaro degli imprenditori, 34 gli arresti. Era Seveso questa banca, in provincia di Monza Brianza. Era gestita da un'organizzazione capace sia di riciclare con facilità il denaro di imprenditori che volevano evadere il fisco, sia di prestare soldi e di reinvestire poi in aziende sane. Vado velocissimamente a prendere uno dei libri che ha scritto appunto Barbacetto, Le mani sulla città, dicendo: la borghesia milanese vive tranquilla, intanto i boss sono proprietari di decine di locali, ristoranti, discoteche alla moda, veri e propri uomini d'affari che all'occasione sono pronti a trasformarsi in spietati criminali. La città è cosa loro, guai a ostacolarli. Così, no? A quanto pare, Gianni. Sì, è così. L'inchiesta di oggi ci ha, con quegli arresti, ha messo finalmente in rilievo in maniera concreta anche un passaggio ormai alla fase finanziaria del business mafioso. Cioè, si è spesso detto: ah beh, attenzione, perché siamo in una fase di crisi economica e quindi le banche sono, come dire, più restie a prestare denaro agli imprenditori. E quindi attenzione, perché invece c'è una banca informale che di soldi ne ha tanti, e sono le organizzazioni criminali, sono le mafie, e quindi queste potrebbero entrare nel mondo, nel giro della finanza. Lo si è detto in astratto, oggi abbiamo scoperto che è drammaticamente vero, che è concreto, perché abbiamo, cioè non abbiamo noi, ma insomma gli inquirenti, tra cui il da Boccassini, come sempre, esatto, molto in, esatto, prima linea, i magistrati milanesi e la polizia della squadra mobile, oggi ha scoperto che c'era un imprenditore, un banchiere, diciamo, assai strano, che faceva affari finanziari con quella riserva aurea che non gli viene dalla Banca d'Italia, ma che viene dalle organizzazioni criminali e dai business illegali dell''Ndrangheta. Questo ci fa pensare, a parte che è una risposta ulteriore a chi tempo fa, anche per esempio mi viene in mente l'ex sindaca Letizia Morati di Milano, che diceva: no, ma qui a Milano non esiste la criminalità organizzata, la mafia, l''Ndrangheta non ci sono, no? Invece a quanto pare mi sembra che sia una storia vecchia, lunghissima, visto che Milano è la capitale economica, no? Poteva essere un po' strano che la criminalità organizzata non avesse interesse a fare interessi qui a Milano. Gianni, tra l'altro, a proposito di interessi, adesso con l'Expo 2015, con l'esposizione universale dell'anno prossimo, con tutti gli appalti, i giri di soldi eccetera, insomma, se questo è il controllo della città, che rischi ci sono? Sì, i rischi sono gravi. Purtroppo noi usciamo da un ventennio, se non di più, in cui la presenza della criminalità organizzata, soprattutto dell''ndrangheta, che è l'organizzazione criminale più forte a Milano e in Lombardia, era praticamente negata. Questo adesso è finito, cioè ormai non si trova nessuno sano di mente che riesca a dire la mafia a Milano non esiste. Però c'è ancora una sottovalutazione ed è questa. Si dice d'accordo, va bene, ormai ci avete convinto, la mafia c'è, l''ndrangheta è saldamente impiantata a Milano e in Lombardia, ma è un corpo estraneo, qualcosa che viene da lontano, da fuori, dalla Calabria, sono i calabresi che si sono impiantati qui, è diciamo un virus che sta infettando un terreno che resta però un corpo che resta sano. Ecco, questo purtroppo non è più tanto vero e anche l'indagine di oggi lo dimostra. Perché? Perché i calabresi, cioè quella minoranza di calabresi che sono parte delle organizzazioni criminali, perché la maggioranza è sana e non ha nulla a che fare con l''ndrangheta, certo. Ma insomma quella minoranza c'è, ma quella minoranza non sarebbe nulla e non si sarebbe impiantata nel tessuto milanese e lombardo se non ci fossero professionisti, imprenditori, avvocati, commercialisti, costruttori, politici, dai cognomi assolutamente milanesi e lombardi, che sono il terreno che ha fatto germinare la mala pianta della criminalità organizzata, cioè l''ndrangheta cresce laddove c'è un terreno che fertile che la fa crescere. Bene, e purtroppo sono gli imprenditori lombardi che ricorrono ai servizi di questa agenzia di servizi, addirittura anche finanziari, ormai bancari, che si chiama 'ndrangheta, invece di correre alla Procura della Repubblica o dei Carabinieri a denunciare. Gianni Barbacciato, in questo minuto, poco meno di un minuto che ci rimane, quindi tu dicevi sono lo stessi che ricorrono in questo caso di questi arresti a Milano, questi imprenditori che cercavano di evadere il fisco e quindi con tutto un meccanismo particolare, dando poi una percentuale del 5%, facevano degli assegni facendo finta di fare delle spese, li davano a queste società dell''ndrangheta e poi li ridavano in contanti. Un altro interesse che hanno gli imprenditori in questo 30 secondi che rimangono? Ma sono, diciamo, l''ndrangheta si sta affermando come una società che presta servizi, servizi di vario tipo, dalla sicurezza nei locali notturni, al prestito ad usura, al finanziamento di imprese. Chiarissimo Gianni Barbacciato, ne parleremo ancora un'altra volta perché purtroppo il problema c'è. Grazie intanto Gianni, noi ci sentiamo tra poco.